d'accordo con l'orchestra, qua. Sebastiano, l'operaio, il terrone da catena, licenziato stamattina e stasera alla fontana, accusato di violenza contro i capi terrorista, perché oggi chi picchetta quantomeno brigatista, viva la figlia, viva la figlia. Licenziato con 60 e con lui fa 61, tutti quanti terroristi, mentre il terrorista è uno. Viva la figlia, viva la figlia, terrorista è chi ci nega il diritto alla ragione, alla lotta per la vita contro la disperazione. Viva la figlia, viva la figlia, controllare le assunzioni, puoi schedare il personale, controllare pseudolotte e alla fine licenziare, incastrare il sindacato, ingolfare la sinistra, è il progetto dichiarato del padrone terrorista. Doppio petto e il fumo democrazia, la mattina ci licenzia e poi svelto corre via. Buon proseguimento. Ciao Ivan, grazie.